Siamo all'agenda della settimana per quanto riguarda gli eventi culturali e soprattutto il teatro. Ciao Simone, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Andiamo questa settimana a vedere un po' di cosine. Sicuramente partirei dal Teatro Torbella Monaca, dove dal 10 fino al 12 di marzo andremo a vedere le operette morali di Giacomo Leopardi, la regia di Esper Russo, compagnia teatrale Il Salto. C'è un viaggio, quello delle operette morali, attraverso i pensieri e la prosa leopardiana che mette insieme, insomma, filosofia e i personaggi immaginari, fantastici, che danno vita a questi dialoghi tra, appunto, entità particolari che possono approfondire l'esistenza umana. Dal 10 al 12 marzo, appunto, al teatro Torbella Monaca per le operette morali. Nello stesso teatro, 12 e 13 di marzo, per una vecchia conoscenza, in realtà, del teatro romano di questi anni, ovvero sia Filippo Gili, che torna in scena con Ovvi Destini, spettacolo che vede in scena Pier Giorgio Bellocchio, Anna Ferzetti, Daniela Marra e Vanessa Scalera, che abbiamo molto apprezzato, soprattutto in questi anni, insomma, anche nei suoi impegni cinematografici e televisivi. È uno scavo nelle relazioni familiari con tre sorelle, Laura, Lucia e Costanza. Costanza è su una sedia a rotelle, purtroppo per un incidente provocato proprio dalla sorella Laura, la maggiore, ma nessuno conosce la responsabilità di Laura. Ma c'è un altro personaggio, Carlo, che è l'unico a conoscere questa responsabilità e appunto in questo rapporto entra in gioco appunto qualcosa che farà saltare un po' il banco. 12 e 13 marzo al teatro Torbella Monaca per Ovvi Destini di Filippo Gili. Per quanto riguarda invece gli altri teatri, direi che andiamo al Teatro dei Servi per terapia di gruppo, 11-13 marzo, stand-up comedy femminile, per tornare a ridere sulla psiche umana, Chiara Becchimanzi, appunto, con terapia di gruppo, è un flusso di coscienza sugli stereotipi dedicati al benessere psicologico, quindi la terapia di gruppo intesa come un lavoro volto a disinnescare certe cancrene del pensiero umano. Dall'11 al 13 marzo al Teatro dei Servi. Per quanto riguarda invece il Teatro Lo Spazio, 10-13 marzo per Edipo Remake di Cinzia Maccagnano, che è anche in scena con altri attori e presenta questo spettacolo appunto dedicato a questo dramma dell'uomo vinto dalla fatalità, malgrado la sua volontà e la sua ribellione, appunto quello di Edipo, che evoca la ragione, l'istinto e crea dialoghi serrati e diventano sempre più interrogatori con Creonte, con Tiresia, come fossero appunto delle voci interiori che lo tormentano. Edipo Remake dal 10 al 13 marzo al teatro Lo Spazio. A proposito di spazio, c'è lo Spazio Rossellini, che fino a domenica 13 presenta, già da ieri sera in realtà, il laboratorio per riflettere sul ruolo della donna e dell'uomo nella comunità e ne seguirà appunto uno spettacolo Apparatus Matri, ispirato alla casa di Bernal d'Alba di Federico García Lorca, in scena da venerdì 11 a domenica 13 marzo, e ne abbiamo anche già parlato con Eleonora Gusmano, che sarà in scena insieme a Ania Rizzi Bogdan e insieme a Valentina Favella. Quindi lo spazio Rossellini si apre alla riflessione sul ruolo della donna e dell'uomo all'interno della comunità. Per quanto riguarda invece il teatro Fortezza Est, 10-12 marzo per Malleus Maleficarum di e con Morena Rastelli, un monologo sulla natura femminile, la libertà di essere diversi fuori dalle convenzioni e dagli schemi. Primo studio di un lavoro che prenderà pian piano corpo, un monologo sulla natura femminile, appunto l'ipocrisia di questa epoca malata che nella declamata parità dei sessi, in realtà dei sessi nasconde la discriminazione, la crudeltà, l'abuso, la debolezza e la fragilità umana. Questo lo andremo a vedere al teatro Fortezza Est dal 10 al 12 di marzo. Per ciò che riguarda invece l'altrove, Teatro Studio, questa settimana l'appuntamento, anche la prossima in realtà, con Elisa Di Eusanio, che dal 10 al 13 marzo presenta questo testo di Letizia Russo, che lei stessa dirige con Daniele Muratore, e invece in scena c'è Andrea Lolli insieme a lei, che si chiama Neve di Carta ed è un testo ispirato al libro di Anna Carla Valeriano, Ammalò di testa, storia del manicomio di Teramo, che raccoglie le vicende assurde, storie atroci, soprattutto di donne internate per futili motivi, irrequietezza e o esuberanze caratteriali lasciate impazzire in manicomio. Una ballata scritta in versi tra due contadine abruzzesi del Novecento che evoca il mito di Orfeo ed Euridice. Gemma e Bernardino si amano e si sposano, ma appunto la vicenda di Gemma sarà quella che poi andremo ad affrontare, come abbiamo detto, insomma, con il libro di Anna Carla Valeriano sul manicomio di Teramo. 10-13 e poi 18-20 sarà l'Altrove Teatro Studio, Elisa di Eusanio con Neve di Carta. Al Parioli c'è stato un debutto rimandato, ma questa settimana lo spettacolo dovrebbe farsi. Variazioni enigmatiche di Eric Emanuel Schmidt con la regia di Matteo Tarasco, ma in scena ci saranno Glauco Mauri e Roberto Sturno, l'importante compagnia storica che appunto porterà sul palco del Teatro Parioli questo lavoro di Schmidt. Al Teatro di Roma ancora va in scena, debuttato da pochi giorni, M, figlio del secolo di Massimo Popolizio, ispirato al libro omonimo di Scurati, che appunto ricalca la vicenda appunto di Benito Mussolini con un'analisi piuttosto acuta e profonda sul fascismo della società più che sulla figura del dittatore, quindi molto interessante da questo punto di vista. E ancora, appunto, ne abbiamo già parlato, lo ricordo perché è un po' lo spettacolo della settimana, dall'8 al 13 marzo, dalle lettere sulla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro, con il vostro irridente silenzio, Fabrizio Gifuni, che porta in scena la prigionia di Aldo Moro, i suoi dubbi, le sue accuse, le sue confessioni, le lettere ai familiari, agli amici, ai colleghi di partito che costituiscono il suo memoriale e in qualche modo il memoriale non solo di 55 giorni di prigionia, ma su una fetta molto ampia della storia italiana su cui luce piena non è stata ancora mai del tutto fatta. Quindi, con il vostro ridente silenzio, 8-13 marzo, Teatro Vascello con Fabrizio Gifuni, e questo è tutto.